è una legge data circa 4.000 anni fa dall'Eterno Dio al popolo di Israele allo scopo di regolare i rapporti civili, la quale, se messa in pratica, ha una attualità benefica come poche altre. Non che tutte le leggi che si trovano scritte nella Bibbia siano valide anche per noi oggi, primo, perché 2/3 della Bibbia è scritta per il popolo ebraico, poi perché certe regole in merito a animali e campi non sono più attuabili. Usando però il principio di non fare di tutte le erbe un fascio, occorre obiettivamente riconoscere che alcune leggi ebraiche, e soprattutto i loro principi, sono valide, utili e a volte indispensabili per vivere bene e meglio. Una di queste è appunto quella relativa alla necessità di avere 2 testimoni in certe circostanze. Se uno uccide una persona, l'omicida sarà messo a morte sulla deposizione di testimoni, ma non si metterà a morte nessuno sulla deposizione di un solo testimone. No 35:30. E ancora, un solo testimone non basterà ad incolpare alcuno per qualsiasi crimine o peccato abbia commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di 2 o di 3 testimoni. DT 19.15. Uccidono più la maldicenza e la calunnia che qualsiasi altra cosa. L'uccisione, oltre a essere fisica, è anche morale e relazionale. Con la maldicenza si può dividere i più grandi rapporti, come il matrimonio, l'amicizia e una vita comunitaria inoltre. Essa può pure portare alla condanna a morte, là dove vige la pena capitale. La calunnia può disonorare e rovinare una reputazione per sempre, e quindi uccidere moralmente chi ha compiti di responsabilità nella società o in una comunità religiosa. Dato però che, a volte, ciò che viene detto può anche risultare vero, com'è possibile sapere se quanto esposto corrisponde alla realtà? Ecco che Dio ha trovato un modo umano, anche se limitato, avere 2 testimoni. Questo metodo frena qualsiasi iniziativa personale focosa e irresponsabile per dare più valore a ciò che viene detto. Proprio perché ciò che viene detto di negativo deve essere preso sul serio, per Dio è opportuno che vi siano almeno 2 o 3 persone a testimoniare, in modo che le sanzioni conseguenti siano corrispondenti a una reale colpevolezza. Per Dio è ingiusto punire chi non è colpevole, ma altresì ingiusto che il colpevole non riceva la giusta punizione. Come applicare nella nostra realtà del XXI secolo questa legge? Anzi, ha ancora valore la legge dei 2 testimoni per accusare qualcuno? La risposta è più che mai. Però la Bibbia presenta la lingua dell'uomo come un flagello, GB 5.21 come una freccia micidiale, Geremia 9.8, piena di veleno mortale, GC 3.8, bugiarda, SL 109.2, arrogante, SL 12.3, come un rasoio affilato, SL 52.2, e per questo dobbiamo aspettarci di tutto da chiunque parli, da tutti. Sì, anche dai credenti. Se non fosse così, l'Apostolo Paolo non avrebbe ordinato più volte ai credenti di non mentire e di dire sempre la verità. CL 3.9. Con questa prospettiva, è evidente che non bisogna mai credere subito a chi sparla o calunnia qualcuno, ma è saggezza ascoltare almeno 2 testimoni. Occorre ricordare che i testimoni sono coloro che hanno visto e udito in prima persona una certa cosa e non coloro che hanno sentito dire o riferiscono supposizioni. Calata in pratica questa verità vuol dire che non si interrompe un'amicizia solo perché qualcuno si è preso la briga di sussurrarci all'orecchio cose negative in merito al nostro amico o amica, come un responsabile di una comunità non viene tolto dal suo incarico solo perché una donna sparge la voce di aver commesso adulterio con lui. E triste che uomini e donne che hanno compiti di responsabilità siano accusati solo sulla deposizione di un testimone. Possibile che a nessuno venga in mente che l'accusatore possa mentire? Possibile che la stima di chi serve Cristo, durata 10, 20, 30 o 40 anni, venga messa in discussione così, all'improvviso, dalla deposizione di un solo testimone? E che, per questo, a volte l'accusato sia tolto dall'incarico? Tutto è possibile, certo, perché anche grandi uomini di Dio hanno grandemente sbagliato. Tuttavia, Dio, avendo ordinato che per incolpare qualcuno occorrano due o tre testimoni, sapeva quanto può essere micidiale e falsa la lingua. Dobbiamo prendere sul serio l'ordine di Dio relativo alla necessità dei due testimoni, al pari di quanto prendiamo sul serio l'ordine di non commettere adulterio e di non assassinare. Non vi è un ordine più importante o meno perché, come dobbiamo ricordare, la menzogna è messa nell'elenco dei 10 comandamenti assieme all'idolatria e alla bestemmia. Se una comunità mettesse in pratica la regola dei due testimoni, eviterebbe molte lacerazioni e le persone maldicenti se ne andrebbero da sole dalla vita comunitaria, sia per vergogna, sia perché troverebbe una chiesa compatta. Non a caso, Gesù nel suo insegnamento si è riferito ai due testimoni e, anche lui, in merito ai rapporti con il prossimo. Non è un insegnamento certamente nuovo, ma a quanto pare raramente viene messo in pratica. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano o il pubblicano. MT 18.1517. Dunque, quando sorge un disaccordo serio tra due persone, la prima cosa da fare non è lamentarsi con qualcuno estraneo alla questione, ma avere uno schietto rapporto diretto, in un luogo in cui nessuno oltre all'interessato possa sentire. Questo è il primo dei tre passaggi, precedente la rottura di un qualsiasi rapporto. A nessuno è dato di scavalcare il procedimento che Gesù ha istituito, anche perché i passi seguenti sono condizionati dal primo. Se, dunque, dopo una chiacchierata strettamente personale nella quale viene messo in evidenza il torto subito, il fratello accusato di averlo inferto non si riconosce responsabile, solo allora è necessario avere due testimoni. Il discorso di Gesù non chiarisce se, parlando dei testimoni, questi dovessero essere stati presenti al fatto, o se debbano essere solo partecipi alla conversazione. Qualsiasi opzione si scelga, però, resta il fatto che nessuno può essere ritenuto colpevole e subire delle sanzioni senza la testimonianza di altri. Questo è il punto. Solo allora il fratello che ha veramente commesso qualcosa di grave e in merito al quale si suppongano delle infrazioni, deve essere citato davanti alla comunità e, qualora egli rifiutasse di riconoscere il suo torto, per questo, potrà essere ritenuto non partecipe della vita comunitaria come prima. Un procedimento molto semplice, ma che, purtroppo, poche volte viene messo in pratica. La persona che ritiene di essere stata ferita spesso preferisce vomitare o sfogare senza discernimento il proprio rancore o il proprio dolore con qualcuno estraneo alla vicenda. In genere un simile gesto produce smarrimento in chi riceve la confidenza, perché non ha vissuto tutto il dramma dell'offesa, provocando così in quest'ultimo la tentazione di considerare a sua volta negativamente il fratello accusato. Inoltre, un simile comportamento individualistico crea degli attriti personali, mentre la riprensione, prima personale e poi pubblica, evita questo pericolo e ha sempre lo scopo di recuperare un rapporto rotto. È evidente che chi vuole colpire non ha uno scopo redentivo, ma distruttivo. Triste realtà, dichiarata anche da Gesù, quando disse che prima del suo ritorno molti si tradiranno, MT 24.10, espressione, questa, significante sia che i credenti si riveleranno per quello che sono, sia che mancheranno alla fede data, come Pietro. Per molto tempo mi sono chiesto come mai una maldicenza, cioè il riferire agli altri delle azioni moralmente riprovevoli avvenute davvero, arricchendo con nome e circostanze che permettono di identificare l'autore del male che non si ha il diritto né il dovere di far conoscere, e la calunnia, cioè possibile che se si dicono 10 cose vere di una persona e una falsa, ciò che rimane più impresso è la falsa. Possibile che sia più facile e spontaneo parlare del negativo che del positivo. Perché la gente è attirata in una discussione in merito alla maldicenza più che in una relativa alla verità? La parola di Dio ne dà una spiegazione. Le parole del maldicente sono come cibi squisiti e penetrano fino nell'intimo delle viscere. PR 26.22. Triste realtà. Per come siamo fatti, noi esseri umani non siamo attratti più di tanto dalla verità, sia perché spesso essa è iconoclasta, cioè anticonformista, innovatrice, e tutto ciò che ci obbliga a doverci impegnare per essere raggiunto ci risulta scomodo, sia perché essa il più delle volte disturba, cosa facilmente comprensibile quando, ad esempio, qualcuno ci mette in evidenza certe nostre caratteristiche negative. Questo spiega perché un parlare male di altri, che non impegna più di tanto, è più piacevole al nostro orecchio. Proprio perché siamo inclinati a volere il male del prossimo, la legge di Dio, data al popolo di Israele, imponeva un'altra regola molto interessante, la quale, se fosse messa in pratica oggi, limiterebbe il male sociale delle divisioni. Se il testimone risulta un testimone falso, che ha deposto il falso contro il suo prossimo, allora farete a lui ciò che intendeva fare al suo prossimo. DT 19.1819. Applicando il significato del versetto alla vita comunitaria, si otterrebbe che chi colpisce il prossimo, con l'eventuale conseguenza che quest'ultimo venga tolto da un incarico, l'onore del prossimo è talmente importante che volontà di Dio al riguardo è che non si sparga alcuna voce falsa e di non dare alcun aiuto all'empio per essere un ingiusto testimone. Es 23.1. Il testimone ha un valore incalcolabile sia nel bene sia nel male. Per questo l'Eterno Dio stesso, quando diede la legge, disse: «Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché possa vivere tu e i tuoi discendenti». DT 30.19. Dio ha due testimoni che hanno udito ciò che lui ha detto. Il cielo e la terra hanno registrantico testamento o ogni promessa sia in bene, sia in male, vedi anche Giosuè 23.15. Conviene prendere una seria decisione di essere dalla sua parte e rifiutare il male perché i suoi due testimoni sono veraci e imparziali. Maggio 2009. Ellero.